Benvenuti, radioascoltatori di Exalge. Io sono Enrico Liuzzo e questa è la prima puntata di Alma. La scorsa volta ho fatto l'episodio pilota, che era appunto una visione generale, un incontro con Alma, che dà il nome a questo podcast. Quindi, giusto una rinfrescatina su chi sia questa Alma. Alma è uno dei tanti modi per chiamare l'anima. Infatti, in spagnolo e in portoghese Alma significa anima. E diciamo che ho scelto questo nome per il fatto che deriva dal latino e significa nutrire, perché mi piace giusto questa immagine di anima, di energia che nutre. E come iniziare questo episodio dal titolo Io/Dio? Lo farei ricollegandomi alle ultime cose dette nell'episodio precedente, ossia riparlando del viaggio che secondo la mia visione Alma fa. Quindi dissi che tutto parte da un'intenzione, che poi diventa un'attenzione e poi un'emozione, per poi diventare un'azione. Quindi tutte queste azioni che si susseguono e allo stesso tempo avvengono in contemporanea. Questo è il viaggio di Alma. Questo viaggio accade in contemporanea, in due mondi, due realtà e un ponte. Quali sono queste due realtà e qual è questo ponte? La prima realtà è la realtà della mente, che è una realtà che si può percepire soltanto attraverso le conseguenze di questa realtà nel mondo fisico. Ossia, io posso comprendere e dire che c'è una mente, una realtà della mente, e che è abitata da pensieri, intenzioni, solo tramite le manifestazioni di queste intenzioni, di questi pensieri nel mondo fisico. Un po' come la fisica quantistica, per cui non posso vedere direttamente i quanti, non posso vedere direttamente ciò che avviene nel mondo quantistico con i miei occhi, non posso udirle, non posso assaggiarle, ma posso vederne le conseguenze sul mondo fisico. Questa è la prima realtà, quindi la realtà della mente. L'altra realtà è la realtà fisica, quella, la realtà di tutti i giorni, la realtà di cui fanno parte tutti gli oggetti, i corpi. E questa realtà si può definire come la realtà che si può percepire grazie ai cinque sensi. Quindi tutto ciò che può essere visto, gustato, ascoltato, toccato. E ne manca uno. Visto, ascoltato, toccato, assaggiato, oh cavolo, annusato, perché l'annusare, grazie Coli, pensate all'altra realtà. Quindi la realtà fisica è tutta, detto in un altro modo, tutto ciò che può essere sentito tramite i cinque sensi, fa parte del mondo fisico. E poi c'è questo benedetto ponte è il respiro. Il respiro viene definito come ponte proprio perché è ciò che collega le due realtà. È la vita stessa, come si è detto l'altra volta, la manifestazione della vita stessa nel mondo fisico. Collega queste due realtà. L'intenzione, l'attenzione fanno parte del mondo della mente. Non possono essere viste, sentite, toccate, così, finché non si manifestano. L'emozione è la prima, diciamo, parte del viaggio che si manifesta, la prima parte del viaggio di Alma che si manifesta in questo mondo, l'emozione che scuote i corpi, che fa tremare, che fa battere il cuore, che fa piangere, che fa sorridere. Diciamo, questa emozione è proprio quella che muove i corpi. E poi c'è l'azione. L'azione fa parte del mondo fisico. È, diciamo, la manifestazione dell'intenzione. Quindi, detto questo bel potpourri, ripassato questo bel potpourri di viaggio di Alma, senza ciancio alle bande, bando alle ciance, perché ego e io cosa sono? L'ego e Dio. Io e Dio. L'ego non è nient'altro che il nome che viene dato al corpo di scelte che una persona fa spesso. Ad esempio, Enrico è un io, è un nome che rappresenta quella persona che fa determinate scelte. Può dire: Enrico è una persona logica, molto logica, perché fa sempre scelte razionali. Enrico è una persona che ama cucinare, perché ci mette l'anima ed è presente quando cucina. Enrico è una persona solare, perché sorride spesso. Enrico è una persona indecisa, perché viaggia sempre, se ne va. Diciamo che queste scelte che vengono fatte spesso determinano quell'io, in questo caso Enrico. E quindi, come si può vedere, perché si dice che l'ego alcune volte è negativo? Cioè, si pensa che l'ego sia una cosa a prescindere negativa. L'ego non è negativo, l'ego può essere, l'ego è, punto. Cioè, un insieme di scelte, di intenzioni, di pensieri, di azioni, è l'insieme delle scelte, delle azioni, delle intenzioni, delle azioni che vengono fatte più spesso da un corpo. Perché comunque vediamo, siamo molto, come si può dire, salutiamo Sergione che saluta da dietro la finestra. Grande Sergione, uno dei cuori di Exagger. E dove ero rimasto? Stavo dicendo, quindi l'ego non è nient'altro che il corpo delle scelte che vengono fatte più spesso da una persona. E l'ego, attraverso la storia, come tutto, ha avuto diversi nomi. Alcune volte è stato chiamato maschera, quasi in maniera negativa. Come diceva Pirandello, spero di non dire una vaccata, 1, 10, 100.000 maschere. E come giusto, quest'ego è chiamato maschera perché un insieme di azioni, di decisioni che vengono ripetute talmente tanto, talmente spesso che si manifestano, prendono corpo, prendono una forma di maschera, un vestito, e che va ad aderire alla persona. Non è detto che sia una maschera cattiva, buona, è quello che è. Quella maschera riflette le azioni e le decisioni e le intenzioni di una persona. Questo magari lo dico per sfatare un po' il fatto che l'ego sia cattivo, l'ego, l'io, sia un qualcosa di cattivo, quando invece è quello che è. È un modo per definire nel tempo una persona. Questo sono io, questo siamo noi. Siamo un insieme di scelte, un insieme di decisioni, un insieme di decisioni. E nel momento in cui una persona sceglie, credo si possa dire di conseguenza che possiede ciò che sceglie, che sia una persona, un lavoro. E posso iniziare a dire che è mio quel lavoro, inizio a dire il mio lavoro, la mia famiglia, la mia ragazza, il mio paese, il mio credo, il mio... Perché alla fine noi possediamo quello che scegliamo, no? E automaticamente ci responsabilizziamo su questo. Ci responsabilizziamo su ciò che scegliamo e dunque possediamo. E l'ego è la forma di possesso più grande, sempre, sottolineo, non deve essere visto in maniera negativa la possessione. Certo, possedere in quanto scelto, cerco di articolare un po' più, in maniera un po' più chiara. Nel senso, un conto è possedere in maniera per cui non riesco a fare a meno di quello che scelgo. Che questo non è neanche possessione, quello è proprio essere dipendenti da qualcosa, che è una cosa diversa. Possessione e dipendenza sono due cose diverse. Un conto è possedere una relazione, un lavoro, avere un lavoro, una famiglia, un posto, una decisione. Un'altra cosa è essere dipendenti, cioè nel momento in cui io cambio, che la situazione cambia, non riesco a vivere senza quella possessione. Lì diventa dipendenza e lì diventa una cosa, tra virgolette, negativa. Cioè sì, diventa negativa, perché dipendo. Cioè vuol dire che quella cosa, quella persona, quell'attività, divento dipendente da quello, quindi diventa un peso che ha un'influenza forte sulla mia vita, che per cui senza di quello la mia vita si disequilibra. Per questo dipendere, perché dipendo da quel peso, da quel corpo che ha una forza, a cui lascio il potere, perché il potere è dato, non è preso. Do il potere a questa persona, a questa relazione, a questo lavoro, a questo evento, di esercitare un potere su di me, di esercitare un peso, e per questo automaticamente dipendo. Quindi tutto questo per dire che l'ego, alla fine, per quanto venga definito il possesso, il corpo del possesso, non è un male. Non è neanche un bene, sempre. È quello che è. Non è un... Ecco, un altro modo per diciamo, distendere questo discorso. diventa una cosa non salutare, velenosa, l'ego, nel momento in cui diventa estremista, nel momento in cui l'ego prende una posizione tale per cui non riesce più a accettare nient'altro, per cui si pensa che senza quella cosa, senza quella possessione, senza quella persona, senza quella situazione io muoia. In questo caso si diventa tossico, è vero, assolutamente, giusto perché si pensa di dipendere da quello, quando non si dipende da nessuno, da niente. Insomma, è una questione di scelta. Ed è per questo appunto che quando non si ha più un lavoro che magari è andato avanti per tanto tempo, non si vive più una relazione che è andata avanti per tanto tempo, non si vede più una persona che si è vista per tanto tempo e a cui si è stati molto legati, o un lavoro a cui si è stati molto legati, o anche un oggetto, nel momento in cui si rompe la relazione, rimane un vuoto, rimane un... parte, inizia un disequilibrio assurdo, proprio perché questa cosa aveva un peso fortissimo su... aveva un'influenza fortissima sulla mia vita. Quindi... c'è da scegliersi bene l'ego, nel senso... per questo anche si dice di essere... sì. C'è questo desiderio di equilibrio, di pace. Cazzo, viva la pace. Di equilibrio, di armonia. Essere in equilibrio e in armonia vuol dire che non si dipende, vuol dire che non è troppo portato da un lato, non è troppo portato dall'altro, non è estremo come cosa. O meno... si dice che la vita sia pesante quando sono troppi alti e bassi, troppo quella che in meditazione si chiama la mente della scimmia, che passa da una parte all'altra, super alti e super bassi, che alla fine mandano in palla la vita. Quindi, per questo è bene essere in equilibrio, non vuol dire non puntare in alto, non vuol dire non rincorrere i propri sogni, è più un passo passo, un andare. Che fretta c'è? C'è bisogno di... questa è una cosa che un po' si è persa, penso, al giorno d'oggi, che è il ritmo, l'andare passo passo seguendo i propri ritmi. Cioè, ok, il mio desiderio è arrivare là, ma perché devo correre? Perché devo... diventa troppo drastico, diventa un super alto. Cioè, posso benissimo arrivare in cima, per esempio. Voglio scalare l'Everest, quindi arrivare in cima. Dici, minchia, che bello. Meno parolacce. Vorrei arrivare in cima all'Everest. Bella, cioè ci sta, è un bel sogno, mi piacerebbe. Il fatto è che un conto è arrivare in cima all'Everest in un'ora, correndo come i pazzi, al di là che mi viene una altitude sickness, per cui mi viene la febbre d'altitudine, per cui ci lascio le penne. E in più non mi godo il paesaggio, quindi al contrario, se vado lento, vado col mio ritmo, passo dopo passo. Lao Tzu diceva: un viaggio di 1000 miglia comincia sempre con un passo. E non è male viaggiare, andare, cambiare il proprio ego, è un bene. Consigliabile salutare, farlo passo passo, come tutto nella vita, perché il mondo non è nient'altro che uno specchio della nostra interiorità, tutto è uno specchio. La realtà fisica è uno specchio della realtà dentro, le intenzioni di una persona rispecchiano le azioni di una persona. quando si dice tipo le bugie hanno le gambe corte, o che il karma accade, cioè è infalsificabile, perché le intenzioni che poi si riflettono in azioni, anche se c'è un tentativo di cambiarle, sono infalsificabili, le energie sono infalsificabili. E si può essere inconsapevoli delle proprie energie, si può essere inconsapevoli delle proprie intenzioni, è vero. Ed è per questo è importantissimo ascoltarsi, per questo, mega campagna pro meditazione, per questo è importante meditare. Per questo è importante, meditare non vuol dire stare seduti mezz'ora, a gambe incrociate, concentrati sul proprio respiro. Meditare vuol dire essere consapevoli, essere in uno stato meditativo vuol dire essere consapevoli, essere presenti e ascoltare. Se medito sul respiro vuol dire che sto ascoltando il respiro, se medito sul corpo, come facendo yoga, vuol dire che sto meditando sul respiro, sul corpo, vuol dire che sono cosciente, sto ascoltando il corpo, come si muove, se sta bene, se sta male, cosa mi sta dicendo. Come quando medito sulla mente, sui pensieri, sto ascoltando il pensiero, sto ascoltando i miei pensieri, cosa c'è dentro nella mente che fa sì che le mie azioni siano tali. Quando si diceva che il proverbio la strada per l'inferno è lastricata di belle intenzioni, fosse detto al tempo perché, così credo, non ci fosse molta visione interiore, non ci fosse molto ascolto interiore. Perché al di là che l'inferno non è un posto dove sono fiamme e diavoli, l'inferno e il paradiso sono dei posti interi. E se uno conosce le proprie intenzioni, se uno conosce la propria mente, quindi conosce i propri pensieri, che siano pensieri che uno può dire ah ma queste cose qua non sono mie, non conosco le mie intenzioni, non, questa roba non è mia, come posso dire, può anche essere vero. Per il fatto che già nel momento in cui nasciamo il nostro corpo tecnicamente non è nostro, cioè viene dato, è carne della carne dei nostri genitori, è nel DNA di questa carne, nel DNA contenuto nel nucleo di ogni cellula che va a formare quella carne, c'è una memoria, informazioni che derivano dai nostri genitori, dai nostri nonni, dai nostri bisnonni, trisnonni e indietro a tutte le generazioni. Quindi noi nasciamo come una scatola che contiene tutto ciò che è venuto prima di noi. E credo di averlo detto anche l'ultima volta, penso, non ne sono sicuro, quindi dico penso, non credo che l'ultima volta, che un bambino fino ai 4 anni non sviluppa la neocorteccia, quindi non ha una possibilità di consapevolezza di quello che è, e quindi fino a 4 anni non c'è nemmeno la possibilità di mettere in discussione o di farsi domande su chi si è, non si è ancora consapevoli di chi si è. E quindi tutta quella roba che è successa ed è per 4 anni, più tutto quello che viene prima, che ci è stato donato dai nostri genitori e da tutte quelle persone, perché è un cavolo di dono, la vita è un dono, e fino a 4 anni non abbiamo coscienza, quindi. Ed è per quello anche che si va in terapia, perché o da uno psicologo si cerca di parlarne, si vuole parlare di queste cose, si partecipa a danze curative o si fa meditazione, si fa yoga, si fanno tutte queste pratiche che vengono chiamate pratiche di guarigione, di ascolto, in modo da riuscire a diventare ancora più consapevoli, non andare con un pilota automatico di informazioni o di un corpo che non so nemmeno cosa ci sia dentro, ma dire ok, questo è quello che c'è dentro. Boh, realizzato. Panico. Madonna, cosa ho trovato dentro. Cosa posso fare? Il primo passo è realizzare. Ne stavo parlando giusto al telefono con una mia amica poco fa, un'insegnante di yoga fantastica, che il primo passo è realizzare. E il fatto è che quando si fa il primo passo è... Mamma mia, cosa c'è qui? Quindi, oh mamma mia, mi sono dispiegato talmente tanto che devo riprendere il fil rouge. E, quindi dicevo, fino a 4 anni non si ha questa consapevolezza e dopodiché si può guardare dentro e capire un po' cosa c'è dentro, da cosa siamo formati, da dove deriva la nostra educazione, la nostra cultura, gli insegnamenti, ciò che ci è stato detto quella volta 3 anni quando eravamo all'asilo da un bambino che... o quella parola detta, ogni parola, ogni gesto ha un'influenza. Per favore, ricordatevelo sempre. Ricordatevi sempre che qualsiasi parola lascia un'impronta, qualsiasi gesto lascia un'impronta sulle persone. Anche per questo è importante essere coscienti. E cavolo, spargiamo buone vibes, buone cose. E anche l'essere coscienti, l'essere a conoscenza di quello che siamo come corpo, come pensieri, come intenzioni, quello che, di cui siamo stati fatti custodi, cioè questo corpo. Noi siamo custodi del nostro corpo che ci è stato donato da 2 persone che si sono amate, che si amano. Ci è stato dato questo corpo, questa vita. E dopo i 4 anni diciamo che possiamo dire, boh, ora ne prendo il controllo, che è un controllo che si sviluppa piano piano, però prima si impara a gattonare, poi si impara a parlare, piano piano si sviluppano tutte le facoltà per prendere pieno controllo di questa vita. E si sviluppa giusto un ego col tempo. All'inizio l'ego è formato dalle informazioni, dal DNA, dal corpo che ci è stato donato, che è il massimo, l'opera migliore che chi è venuto prima di noi potesse fare, ed è un cavolo di dono. E dopo una certa età la natura ci dà questa possibilità di dire, boh, ora puoi farci quello che vuoi, ora sei consapevole che sei un corpo, sei un'anima, sei dei pensieri, sei... Ieri ho tenuto un incontro di meditazione, c'era questa ragazza fantastica, è venuta qua e mi diceva, noi siamo i nostri pensieri, cos'è che siamo? Siamo le nostre intenzioni. E perché io ho sentito dire che noi non siamo i nostri pensieri, noi non siamo il nostro corpo. No. E dicevo, sì, è vero, noi non siamo i nostri pensieri, non siamo il nostro corpo, noi siamo l'insieme di tutto questo, perché è tutto collegato, perché i pensieri, le intenzioni, l'attenzione, le emozioni, le azioni vanno a stratificarsi sul corpo, quella che si chiama somatizzazione. Come ad esempio l'esempio più comune, ad esempio, quegli sfoghi da stress che avvengono sul corpo, che chiunque, che ci sono in minima parte, tipo, non so, Sergione, che si hanno in parte, non so, il perdere i capelli, un arzaiolo, un herpes, tutte queste, diciamo, somatizzazioni, queste sono quelle, diciamo, negative, di eccesso. E poi sono anche quelle positive, perché anche chi ha un corpo meraviglioso, tenuto bene, che non vuol dire che è un corpo tonico, un corpo bello, affascinante, tutto quanto, vuol dire che i pensieri sono positivi. Pardon. E quindi, noi possiamo essere in controllo della nostra vita. C'è questa possibilità. Quella parte di cervello che si chiama neocorteccia è la prova tangibile del fatto che la coscienza esiste e ci tocca, E come diceva grande zio Ben, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Visto che abbiamo la possibilità di essere coscienti, per favore usiamola. Possiamo farne un mondo migliore. Non sto dicendo che è facile, anzi per niente. Un qualcosa di semplice, la maggior parte delle volte, se non quasi sempre, è un qualcosa di difficile. Perché è talmente semplice, talmente bello, che richiede un'attenzione, un amore, un ascolto incredibile. Basti pensare a un fiore, cavolo, è bellissimo ed è semplicissimo. Tutto ciò che è in natura è semplicissimo e bellissimo. Anche quando si vede un bambino, un cane, un animale, una pianta, un fiore, un prato, un cielo, è così semplice ed è così meraviglioso. Solo che il mondo non è stato fatto in un giorno, ci è voluto il suo tempo, in sette. Ci è voluto il suo tempo. Ed è stato un qualcosa che col tempo, piano piano, con l'abitudine, prima il primo fiore, poi il secondo, e già il primo fiore viene fuori da miliardi di anni, da partire dal Big Bang e da tutto quanto, quindi ci sono voluti i loro tempi per creare le cose semplici e belle. Come l'uomo, anche l'uomo è una meraviglia, ci è voluto un sacco di tempo, e mo si può ancora migliorare, come dice una piccola collana che mi ha regalato una cara amica, più di domani e meno di ieri. Vuol dire che si può fare meglio di ieri e meno di domani. E questo meno di domani vuol dire che è quello che genera quel margine di miglioramento. Passo passo. L'ultimo tatuaggio che mi sono fatto sul mio piedino in sanscrito, proprio passo passo. Meglio riprendere un filetto del discorso. Quindi questo dispiegamento di concetti, visioni e svarioni e guarigioni sono stati per presentare in maniera esaustiva cosa siamo e cosa sia l'ego. Quindi sta a noi decidere se l'ego è quale sia l'ego. Ricordatevi, per favore, sempre che un qualcosa diventa tossico quando supera le dosi necessarie. Mentre è una medicina quando presa nelle dosi giuste. Tutto può diventare una medicina e tutto può diventare un veleno. Anche l'acqua può diventare un veleno. Quando ne si beve troppa, si muore. Quando si respira troppo, in maniera troppo aperta, troppo ossigeno, fa male. Troppo ossigeno come quello delle bombole, a lungo andare, se ispirato troppo, brucia i polmoni. Tutto può essere una medicina e tutto può essere un veleno. E tutto diventa un veleno quando supera le dosi che fanno bene. Quindi, come diceva spesso mio nonno e anche mio padre, in tutto c'è una misura. Quindi, dopo aver parlato dell'io, chi è Dio? Che nient'altro ha di più dell'io che una lettera. Se l'io non è che l'insieme delle mie scelte, dei miei credo, delle mie intenzioni, dei miei pensieri. Dio non è nient'altro, sempre punto di vista, poi forse mi posso sbagliare, però voglio sono contento di condividere questa idea, perché ci credo. E Dio non è nient'altro che il corpo delle credenze. Penso di riuscire a spiegarmi meglio facendo un esempio. Il Dio cristiano, Dio, quel barbone bianco con la faccia che nemmeno si vede, da quanta luce emana, la sua tonaca, i suoi sandali. Chi è Dio? Dio è l'insieme dei credo che lo definiscono. Dio è unico, non c'è Dio altro di fuori di lui. Dio è colui che dice di non uccidere, Dio è colui che dice di non rubare, Dio è colui che dice non desiderare la donna degli altri, Dio è quello di non dire falsa testimonianza. Questo Dio, è Dio cristiano, è la rappresentazione dei suoi comandamenti e dei suoi credi. E questi credi da dove derivano? Questi credi derivano da tanti eghi, tanti io, tante persone che condividono questi credo. Quindi Dio alla fine non è nient'altro che un gruppo di io, di eghi, che condividono gli stessi credi. E infatti mi ricorderò sempre, una volta giocavo tantissimo a Magic the Gathering, un bellissimo gioco di carte collezionabili, credo che sia stato il primo al mondo. E nella storia, nella lore, ci sono vari universi paralleli e ognuno è diverso, un mondo futuristico, un mondo è ambientato una specie di Mongolia, un altro su un pianeta super tecnologico, e via dicendo. Vabbè, tutto questo per dire che in un mondo ci sono, che assomiglia alla Grecia antica, ci sono questi dei che diventano dei da comuni mortali soltanto perché la gente ci crede. Nel momento in cui perdono credenti, perdono potere. È lo stesso principio che c'è nel libro di Neil Gaiman, American Gods, per cui le divinità, gli dei, cessano di esistere nel momento in cui non hanno più nessuno che ci crede. Questo è. Un Dio è un insieme di credenze. Un Dio sopravvive perché c'è qualcuno che ci crede, perché c'è qualcuno che gli dà potere. Ed è lo stesso principio della politica, è lo stesso principio di una relazione, è lo stesso principio di un lavoro, è lo stesso principio di qualsiasi, è il principio universale. Se finché ci sarà una persona che crede in qualcosa, in un Dio, quel Dio esisterà. Se ci sono due persone, quel Dio sarà più potente. Se ce ne sono tre, sarà ancora più potente. Un qualcosa, una relazione d'amore, nel momento in cui non ci sono più persone a crederci, pop, scompare. E tipo, ad esempio, una relazione d'amore, il corpo della relazione d'amore sono due persone, e i principi, i credo che danno vita a questi corpi e a questa relazione d'amore sono i principi fondamento di quella relazione. Come ad esempio una relazione monogama, basata sull'onestà, l'autenticità, la comunicazione e il sostenersi a vicenda, vive finché entrambe le persone credono in questi principi. Dio cristiano, come può essere anche Allah, come può essere Brahma, Shiva e Vishnu, come può essere Zeus, come può essere Odino, come può essere Anansi, come può essere qualsiasi Dio, vive e vivrà finché qualcuno ci crede, finché qualcuno sostiene quei principi. È così. E per questo Dio alla fine ci saranno. Eh? Il discorso della storia infinita. Sì, è la storia infinita, proprio per quello è bello. Ah, nel film dici? Eh sì, comunque okay. Fino alla fine. Grande Sergione, che parla della storia infinita, che se non erro è nato come un libro e poi hanno fatto il film. Sì. Che dice, com'è? Dice la stessa cosa nella storia. Vuoi venire qua? No, a dirlo? No, ok. Grazie. Non è una stronzata, anzi, grazie di condividerlo. E Sergione dice che è lo stesso discorso che si fa nella storia infinita, per cui infatti il protagonista, quello che cavalca il megacane volante, ci crede fino alla fine e quindi realizza il suo sogno, realizza, adesso non mi ricordo più, poi l'avevo visto quando ero piccolissimo. Anche nel senso che lui crede in quello che legge. Ok. Lui ci crede fino in fondo e questo Che figata. Spero si sia sentito. Quello che dice è, c'è questo bambino che è il protagonista, che legge questo libro che si chiama La Storia Infinita, e leggendolo, credendo in questo libro, lui in pratica ricrea questo mondo della storia infinita. Che stava sparendo questa storia infinita, questo mondo, questo piano esistenziale della storia infinita. Quelle che oggi si chiamano timeline in alcune correnti spirituali o realtà. Grazie Sergio per questo intervento, minchia figata. Bellissimo. E funziona proprio così, appunto. Quindi, come tutto, ma non, infatti c'è un libro bellissimo che devo ancora leggere, che mi venne consigliato un po' di tempo fa, che è La storia di Sofia, se non erro, si chiama. Che per cui la tra... Ah no, cavolo, parlandone la distruggerei. Meglio no, nulla, lasciamo stare. Comunque, tutto ciò che esiste a questo mondo è perché ci si crede. Come diceva anche Walt Disney, puoi sognarlo, puoi farlo. Sembra una cosa tipo la frase tipica di Instagram, da post, tipo credici, ce la puoi fare, però ragazzi, è così, se ci credi puoi farlo. L'importante è continuare a crederci. Infatti, anche l'altro giorno vedevo un post di questa tipina che segue, inglese, che parla giusto di manifestazioni. Ho staccato un secondo la musica perché la stavo facendo andare col mio WhatsApp. Questa tipina, che non mi ricordo più come si chiami, Cribbio, adesso la ritrovo, l'ho mandata giusto l'altro giorno a una mia amica. Questa tipina che si chiama Love Again Jen. Love Again Jen con la J. Che l'altro giorno aveva condiviso questo piccolo reel che giusto diceva che la differenza tra chi realizza i propri sogni e chi no, sono proprio terra a terra, concreto, è perché chi li realizza è perché ci crede. È così. E crederci non vuol dire spaccarsi, sforzarsi, arrivare a stare male per realizzarlo. C'è una differenza tra impegno, tra quello che in inglese si chiama commitment, e sforzo. Per quello anche prima dicevo passo passo, non lento, non veloce, ma passo passo, col mio ritmo. Si dice rallenta, non arrenderti, ma rallenta, non mollare. Anzi, tra arrendersi e mollare c'è una differenza, magari in un altro episodio ne parlerò. Nel senso, non mollare, ma rallenta. Prenditi il tuo tempo, riposa, ma per favore non mollare. Se credi in qualcosa e sai che porta buone vibes nel mondo, continua. Continua così. Che sappi che se ci credi, le intenzioni sono vere, e anche per questo meditate, così si vedono quali sono le vere intenzioni, i veri pensieri, si realizzerà. Se uno ci si crede, si realizzerà. Guardate cos'è stato realizzato nel nome della Chiesa, guardate cos'è stato realizzato in nome di Allah, guardate cos'è stato realizzato nel nome di Buddha, guardate cos'è stato realizzato nel nome di Brahma, Shiva e Vishnu. Cioè, cosa ha creato la spiritualità? E la spiritualità non è staccata dalla dal materialismo, cioè sempre come dire, pensieri, intenzioni non sono staccate dal corpo, non siamo o solo i pensieri o solo il corpo, siamo tutto quanto insieme, uno è collegato all'altro. Quindi, perché chi crede in Buddha mediterà, cioè chi crede in Buddha, pardon, stavo dicendo una castroneria assurda, è l'unica religione che non ha un dio. Cioè, Buddha è il profeta, è come parlare di Maometto, Gesù o chi ne ha più ne metta. Nel senso, il nome di certi credi sono state perpetuate certe azioni. In nome di Dio sono state fatte certe cose, possono essere chiamate belle o brutte, sanguinose o non sanguinose. In nome di Dio sono state fatte le crociate, che hanno fatto una mannaiata dei morti, e sono state fatte anche opere di bene, opere di carità, sono state fatte un sacco di missioni per dare una mano, e come anche in nome di Allah sono state fatte delle stronzate, come sono state fatte delle cose bellissime, come nel nome di Elohim, del dio ebraico, sono state fatte delle castronerie, sono state fatte delle cose bellissime, come il nome di Brahma, Shiva e Vishnu, sono state fatte delle cose bellissime e bruttissime. E per questo è importante, sembra di fare una pubblicità assurda alla meditazione, però è parte così. Adesso per questo è importante meditare e essere presenti, perché almeno si vede dov'è la propria attenzione. Si vede se sto facendo una castroneria o se sto facendo una cosa figa. E per favore non giudicate. E neanche Dio può giudicare. Per il fatto che un'affermazione che adoro, che mi piace tantissimo, è che un peccatore ha un futuro e un santo ha un passato. Che chiunque abbia fatto castroneria in passato può fare cose belle in futuro, e chiunque abbia fatto cose belle in passato può fare castroneria nel futuro. E per questo ancora meditate, perché esiste solo un perpetuo, no, così mi sembra narcisista, esiste il presente, un eterno presente. Passato e presente, passato e futuro esistono solo nella mente, perché non sono qua. Tutto quello che c'è qua è l'ora, e quello che c'è qui è ora, è il presente. Nulla di più e nulla di meno. E quanto è passato? È passato una 40 minuti, quindi io alzerò un pochino questa bellissima musica meditativa, che se a qualcuno interessa si chiama Ancestral Worm ed è Clean All Negative Energies, Native American Flute Soothing Meditation Music. E c'è un indiano nativo d'America che medita in mezzo al fuoco, ed è una musica che mi aiuta un fracco a rilassarmi. Spero lo faccia anche con voi. Detto questo, mi prendo una pausa di tra i 5 e i 10 minuti, in modo che tutto quello che abbia detto possa trovare lo spazio di sedimentarsi, di decantare. E per staccare, per bere un po' d'acqua che c'è la gola secca e sfumacchiare una sigaretta. Maledette sigarette. O benedette, chi lo sa. Vabbè. Buona pausa. Buona musichetta. E buona decantazione. Allora, dove ero rimasto? Vorrei, a questo punto, vorrei trovare una quadra. Nel senso, dopo aver lasciato quasi senza redini tutto quello che c'è dentro, cercherei di riprendere in mano le redini di questo cavallo, di questo destriero, di questo raido. Quindi, per un po' tirare queste redini. Cos'è l'ego? Cos'è l'ego? L'ego è l'insieme, il corpo, la maschera formata dall'insieme di intenzioni, pensieri, emozioni, azioni, scelte che un individuo compie più spesso. Mentre Dio, questo Dio, è il corpo, l'immagine di un insieme di credo, scelte, intenzioni, azioni condivise da più io. Diciamo che Dio è un gruppo di appartenenze, se così si può definire. Questo è. Che bella escia. Ho detto, non poteva essere solo questa la puntata. Boh. Fatto, detto, descritto. Però, come anche un film, un libro, è bello viversela tutta, andare in tutti i luoghi, gli antri, sviluppare tutto per poi arrivare a un vissero felici e contenti. E il vissero tutti felici e contenti esiste, basta crederci. Basta crederci. Come nei propri sogni, come in Dio, come in noi stessi. Credere in noi stessi. Alla fine, giusto adesso che ero fuori a bermi un bicchiere d'acqua e a sfumare una sigaretta, sono arrivato alla conclusione, parlando con questo mio amico Sergione, che questa visione sia un po' una visione che si potrebbe definire oggettiva, una visione senza parti. Come dire, non sono apolitico, ma sono apartitico. Un po' detta così. O perlomeno schierarsi senza dover per forza far fuori o violentare chiunque la pensi in maniera diversa. È un vivi e lascia vivere. E... wow. Sto ripensando alla storia e anche alla situazione odierna, di come sia, di come tutto quello che è la conseguenza di tanti pensieri, tante intenzioni, tante azioni, che fatte da tutti. Siamo tutti responsabili dei nostri pensieri, delle nostre intenzioni, delle nostre azioni. E infatti A volte nasce un po' questa questo pensiero di come cavolo si può rendere questo mondo migliore, come si può, dov'è finito Dio? E c'è un credo che sia, che possa essere definito come buddista, che aiutando me stesso aiuto automaticamente gli altri, cioè illumino me stesso così che possa illuminare gli altri. Quindi alla fine si può essere anche visto in una maniera, dall'altro punto di vista, aiuto gli altri, aiuto me stesso, però così potrebbe essere definito come opportunista. È un po' più, guarisco me, stai guarendo me stesso e prendendo cura di me stesso aiuto gli altri, porto beneficio, perché alla fine si può condividere, si può dare solo ciò che si è, ciò che si ha. Quindi se le mie intenzioni sono buone, se il mio ego è buono, se il mio Dio è buono, e con buono dico sano, salutare, se il Dio che scelgo, se l'ego che scelgo, se le mie stesse scelte sono salutari, sono buone, sono amorevoli, quello che porto nel mondo non è né più che di meno che questo, che le mie scelte, che il mio Dio, che il mio ego. Come scegliere in maniera cosciente? Meditando. Essendo presenti, difficile, non impossibile, ma a volte difficile, a volte facile, a volte difficile, però è semplice, non è complesso. E un po' per terminare, anche che sto sentendo un po' la testa che scoppia. Vi invito a meditare, ad essere presenti, ad essere consapevoli nella mente, nel corpo, nelle azioni, nelle relazioni, essere presenti il più possibile. C'è un gran bisogno di consapevolezza. È l'unico modo per far sì che questa consapevolezza sia. Vi ricordo questo post bellissimo, che c'era questa persona che pensava io voglio la pace, e quest'altro personaggio che penso fosse un monaco, mi sembra di ricordare, cioè ricordo che fosse un monaco, diceva bene, togli l'io, quindi voglio pace, e poi togli il voglio, e quindi cosa rimane? Pace. Non c'è molto da fare, molto da dire, c'è bisogno di consapevolezza, c'è bisogno di presenza. Bene, sii presente. Senti bisogno di amore? Senti bisogno di ascolto? Senti bisogno di aiuto? Sì, aiuto, sì, sì, consapevolezza, sì, amore. Questo spiegherebbe anche la logica del karma. Ricevo quello che do, ricevo. Se sento il bisogno di amore, di ricevere amore, sono amore. E qualcuno potrebbe dire, ma cavolo, è proprio quello di cui ho bisogno, l'amore. Come posso essere amore se ho bisogno di amore? L'amore è dentro di noi. L'amore è una scelta, come la scelta è la felicità, come la scelta è la pace, come la scelta è tutto, è una scelta. Certo, se dopo aver pensato in un certo modo, aver compiuto certe scelte per giorni e anni, sono arrivato a un punto, in un luogo, in una città, in una relazione, in una famiglia, sono arrivato dove sono perché ho seguito delle scelte dettate da intenzioni di paura, di rabbia, di odio, cose così. Certo, se dico cavolo, adesso però realizzo che ho bisogno d'amore, c'è bisogno di amore, tolgo il bisogno, rimane amore, sì, ok, però sei in un posto che è stato creato da anni di intenzioni di odio e di intenzioni completamente diverse dall'amore, quindi richiede tempo, richiederà cambiare persone, richiederà cambiare posto, richiederà muoversi tramite intenzioni diverse, muoversi per amore, non muoversi più per odio. Questo è certo, e non vale neanche più, detta così, tra dire e fare c'è di mezzo al mare. Sì, beh, se per scelto intenzioni di odio sono arrivato dall'altra parte del mondo e ho passato un mare, certo, per ritornare dall'amore devo ripassare il mare. che crogiuolo di cotante parole e concetti. Vabbè, allora, per desidero essere in chiusura della puntata, quindi, però prima di chiudere la puntata altre due cosine. Non so ancora bene di cosa parlerò nella prossima puntata, che probabilmente, forse, sarà tra due settimane o un mese. Mi era bazzicata l'idea di avere un ospite speciale, molto amorevole, che con cui vorrei parlare del suono, delle vibrazioni e del verbo. Perché? Perché Dio è verbo. Come iniziano i libri sacri, nell'induismo inizia tutto con l'om, l'alfa e l'omega. Nella Bibbia inizia tutto con il principio era il verbo era presso Dio, e nulla prima fu creato. Quindi mi piacerebbe guidare una puntata con questo ospite proprio su il verbo, le vibrazioni, sotto ogni aspetto, quindi musica, suono, diciamo, vedere il suono, il verbo e le vibrazioni sotto più punti di vista possibile, così da riconnettere tanti occhi, tanti orecchie in questo caso. Boom. Detto questo, è stato un piacere, grazie a tutti coloro che hanno ascoltato, tutti coloro che ascoltano e tutti coloro che ascolteranno. Spero di aver portato un po' di consapevolezza, un po' di amore e di aver portato ciò di cui c'era bisogno. Sono sicuro che queste parole, questa puntata arriverà a chiunque fosse sulla stessa linea d'onda, stessa onda radio. Quindi pace e amore, e grazie ancora. Alla prossima puntata di Alma. Prima di andare, ultima cosa veloce, volevo ringraziare tutta Alge come posto, poiché il posto è fatto dalle persone che ci abitano, volevo ringraziare il tecnico del suono, Coli, ringraziare Giovanna, Giovanni, Riccioli d'Oro e Edo, che sono quelli qua al momento. Ringrazio tutt'Alge e tutti coloro che ne fanno parte. Grazie. E ciao ciao. Alla prossima.